Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Cari ascoltatori, sono le 8:19:20 secondi, però attenti a noi due, questa mattina è solo Oscar Giannino, solo per oggi, perché fratello Alessandro Milan si è preso un giorno per così dire, per la famiglia, e quindi oggi attenti a noi due, attento a me stesso per così dire, però Alessandro torna domani, non vi preoccupate, e andiamo subito, ovviamente santo del giorno è pressoché inevitabile, l'8 dicembre lo sapete tutti che è l'Immacolata Concezione, ed è un 8 dicembre un po' singolare, su un doppio binario per l'Italia, anche un po' per tutti i giornali, i telegiornali, perché tra una specie di questa cerimonia laica che c'è stata ieri con la prima della Scala, esaltata sui giornali come se fosse una specie di grande sfida al terrorismo, tutti i titoli dei giornali, la prova che non abbiamo paura, siete andati in teatro a fare la prima di un'opera, adesso non vorrei dire, in questo paese tutto diventa un po' eccessivo, e dall'altra ovviamente vedrete nella programmazione televisiva, oggi c'è l'inaugurazione dell'anno santo a Roma, e quindi l'anno santo diventa, secondo i giornali italiani, anche questa una specie di grande sfida al terrorismo internazionale, perché l'anno santo quest'anno, l'evento straordinario convocato da Papa Francesco dedicato alla misericordia, beh, insomma, inizia con sotto il segno di un timore molto forte dovuto ai fatti di Parigi. E però la domanda che io vi faccio, se volete intervenire, è questa: se andiamo a fare un paragone, mi sono divertito ieri, ho fatto il mio mestiere, ho fatto un po' di conti e ho paragonato l'anno santo, quello ordinario, con il grande giubileo del 2000, rispetto a questo che inizia, è già iniziato a Bangui in Centro Africa, però formalmente comincia oggi con la cerimonia dell'apertura della Porta Santa. E, ore e ore di programmazione televisiva che vedrete oggi. Ma detto questo, ho fatto due conti tra il grande giubileo del 2000 e questo straordinario che inizia oggi e dura alcuni mesi nel 2016, e i conti per lo Stato italiano sono questi, quindi se volete intervenire vi butto lì i conti che ho fatto per sapere come la pensate, se per voi è meglio o è peggio, perché nel 2000 ci fu una programmazione, come si sapeva, no? Che la scadenza era ordinaria, ci si mosse 6 anni prima, e alla fine si sono spesi l'equivalente di oggi di più di 3 miliardi di euro, cioè più di 6 mila miliardi di lire dell'epoca. Di questi 3 miliardi di euro, poco più di 2 furono direttamente amministrati dal Comune di Roma, vigilati dal Comune di Roma, altri 600-700 milioni da altri enti pubblici sempre a Roma, il resto fuori Roma. Ci furono la bellezza di oltre 800 progetti di opere infrastrutturali tra monitorate e realizzate. Il bilancio fu naturalmente, come sempre in Italia, un bilancio diviso in due, perché da una parte l'allora sindaco Rutelli e il governo in carica dell'epoca, per quel governo ministro Bordon, dissero che i progetti erano realizzati per quasi il 95%, invece un bilancio indipendente, e io aderisco a questa seconda tesi, portò a una percentuale molto più bassa, perché per anni poi ci sono state le polemiche e le code per l'opera non realizzata annunciata per il grande giubileo, tipo il grande auditorium della musica che non ci fu affatto per il giubileo ma arrivò dopo 2 anni dopo, tipo i soldi regalati agli azionisti dell'aeroporto di Roma per movimentare i bagagli che non si capisce perché invece che a loro carico vennero pagati con i soldi del giubileo, e l'impianto di movimentazione dei bagagli naturalmente non era in funzione per il giubileo, e tante altre cose. Comunque, fino a questo momento la somma spesa dall'Italia, la somma stanziata, perdonate, dall'Italia per il giubileo che comincia oggi è dell'ordine di un quindicesimo inferiore a quella del 2000, cioè siamo al decreto che 2 settimane fa ha finanziato 200 milioni. Ecco la domanda che vi faccio: è meglio o è peggio? Io penso che sia molto meglio così, perché, cari ascoltatori romani, il problema di Roma è tornare a un minimo di ordinaria amministrazione efficiente per l'ATAC, quindi trasporti pubblici, per l'AMA, per i tanti disastri dei conti comunali. Ricordo che solo il 4 dicembre, quindi praticamente pochissimi giorni fa, il commissario Tronca, che è in carica dopo le dimissioni del sindaco Marino, ha firmato un documento per il quale, oltre a quasi 20 milioni di deficit superiori ai conti fatti da Marino, il prefetto Tronca segnala che ci sono quasi 200 milioni di debiti extra bilancio, maggiore rispetto a quelli che erano segnalati da Marino, e inoltre ha ritenuto di dover iscrivere a un fondo crediti non esigibili oltre altri 100 milioni di crediti non esigibili che invece risultavano esigibili secondo i conti di Marino. Quindi, in una città, la capitale, coi conti in queste condizioni, la mia opinione è che è meglio giubilare meno, ecco, per così dire. Però magari voi la pensate diversamente, pensate che invece il grande giubileo del 2000 sia stato, in effetti lo è stata, una grande bonanza per Roma, perché poi Roma ha avuto il finanziamento per il potenziamento del raccordo anulare, per il potenziamento dei trasporti terrestri tra Roma e Fiumicino, una vera pioggia di risorse pubbliche. Però la mia opinione è che oggi forse è meglio stare con la cintura tirata, però sentiamo come la pensate. Allora, sui giornali di oggi, questa cosa del giubileo, ovviamente sul Messaggero di oggi trovate un insertone di una ventina di pagine addirittura, che è però presentato in prima, come avevo detto, sfida giubileo, Roma si blinda, quindi questa è la chiave con la quale i giornali italiani presentano l'evento. Il titolo del Corriere della Sera è: la paura non fermerà il giubileo, c'è un'intervista a Parolini, il segretario di Stato Vaticano, anche questo sul tema di sfondo del terrorismo, più dialogo tra le fedi, schierati 3.000 agenti per i controlli. Ma lasciando questo tema sullo sfondo, e vedendo se qualcuno di voi, malgrado il giorno festivo giubilare, ci chiama da Roma o fuori da Roma per vedere l'impressione che vi fa questa specie di giubileo in povertà, che mi sembra anche più coerente allo spirito di questo Papa e come andrebbero vissuti questi eventi, qualche parola invece ancora sulla coda delle elezioni francesi ieri sui giornali italiani, che mi sembrano alla ricerca di qualche eccesso. Per esempio, io non condivido molto l'enfasi con cui Repubblica, ognuno al suo punto di vista, con cui Repubblica continua a presentare la vittoria delle signore Le Pen in Francia. Perché, parliamoci chiaro, l'abbiamo già accennato ieri, la vittoria della Le Pen è del tutto in linea con quello che sapevamo dai sondaggi, quindi non è che ci sia questo, purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista, questa novità tale da spiazzare tutti. Quindi tutti questi titoli, terremoto, shock, sisma, cioè, sarebbero un po' più fondati, dico dal punto di vista giornalistico, se ci fosse stata una sorpresa rispetto ai sondaggi. Invece era tutto stra previsto, e quindi continuo a pensare che sia un po' il giudizio, come inevitabile, delle testate che prevale. Anche oggi Repubblica apre il giornale e va avanti per 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sono le prime 10 pagine sulle vicende delle penne, e i titoli continuano, secondo me, a essere un po' insomma, cioè, l'ultima chiamata per la democrazia e l'editoriale di Bernardo Valli, l'ultima chiamata. Rispetto al punto di vista, non lo so se proprio sia l'ultima chiamata. Uno gira pagina e poi trova l'intervista di Jacques Seguelay. Jacques Seguelay, per chi si occupa di pubbliche relazioni, una specie di nome eponimo, cioè un grande punto di riferimento, perché portò a successo Mitterrand, innovando molto le tecniche della comunicazione politica in Francia, e che rilascia un'intervista dal titolo: è la fine del razionalismo. Marine può arrivare all'Eliseo, si realizza l'incubo francese. Allora, ovviamente, ciascuno può avere gli incubi che vuole. A me questa destra non è che piaccia per niente, autarchica, antimercato e un po' populista, però sta di fatto, mi interrogo su questo titolo e lo giro anche a voi come, come riflessione, se poi uno gira altre due pagine di Repubblica, trova un titolo invece sulle code italiane della vittoria francese del Fronte Nazionale, ed è un titolo dedicato al Presidente del Consiglio, e il titolo è questo: Renzi, aperte virgolette, due punti, questa Unione Europea è alleata di Le Pen. E allora qui arriviamo al punto, perché se questa tesi attribuita a Renzi, che però corrisponde alle sue dichiarazioni, perché il Premier ha dichiarato che le elezioni francesi dimostrano che serve un cambio di passo, il prevalere della linea tedesca del rigore è un regalo ai populisti, ma in Italia i demagoghi, ha continuato Renzi, non vinceranno, le riforme stanno dando i frutti, chiuse virgolette. Però capite bene che se davvero anche Renzi pensa che l'Europa sbagli, che la linea del rigore tedesca è sbagliata, allora è come dire che le obiezioni che vengono dalla Le Pen e da Salvini e un po' anche dai 5 Stelle, seppur distinti come posizione politica, beh, sono giuste. E allora però, ragazzi, qui bisogna intenderci, se è giusto il no all'Europa, il credere che sono i tedeschi che ci impongono chissà quali sacrifici, che peraltro lo Stato annuncia ma poi non fa, e allora capite che io non capisco dall'altra parte perché consideriamo la vittoria delle Le Pen come lo shock, il terremoto, il sisma, la bandiera bianca del razionalismo, se la si pensa allo stesso modo. Ma questo è solo un mio interrogativo, che vi rilancio, perché c'è una singolarità su questo che io non riesco a capire, perché io posso capire se qualcuno che dice no, la Le Pen sbaglia e noi dobbiamo costruire un'Europa più integrata, oppure no, Salvini sbaglia e bisogna difendere l'euro. Ma se invece la tesi è no, sbagliano, però le loro obiezioni sono fondate, beh, trovo che sia un problema della politica italiana più che della politica francese. Se vedo che c'è un autista dell'ATAC che ci sta chiamando, Flavio da Roma. Flavio, sì, ci buongiorno. Sei? Buongiorno. Eccoci qua. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Sì, figuri. Giannino. E niente, io stavo dicendo prima all'operatore che in pratica io ho fatto anche il giubileo del 2000, sì. Già lavoravo in azienda, e cioè a tutt'oggi non c'è proprio paragone, perché lì c'erano migliaia e migliaia di persone. Io adesso sto in un centro che è quello di Anagnina, è una fermata della metro, è un capolinea della metro, e guardi, non c'è assolutamente nessuno, anzi sembra che, a me sembra che c'è meno gente delle domeniche normali. Meno gente delle domeniche normali. Allora, lei coglie un punto di fondo, perché nel grande giubileo del 2000 fu uno strepitoso successo, cioè molti soldi pubblici investiti, ma fu uno strepitoso successo perché ci furono 30 milioni di pellegrini che arrivarono. E questi... Io guardi, ricordo più umane e più sì, umane sì, di persone, sì, sì, esattamente. È proprio come dice lei, e i numeri testimoniano un successo non solo per le strutture romane, della ricettività, del turismo, una sfida vinta per l'epoca abbastanza bene anche per il sistema pubblico del traffico, a dire la verità, ma una bonanza per l'intero turismo dell'Italia, che vide il suo fatturato aumentare di diversi miliardi, al punto tale che quello viene considerato ancora oggi una specie di anno d'oro delle entrate turistiche, tanto che contribuì a una crescita, bei tempi, nel 2000 crescemmo quasi del 3% di PIL e quell'anno battemmo la Germania, quindi è una cosa da ricordare. Ma in quell'anno effettivamente il grande giubileo del 2000 portò una marea di turisti. Gli stranieri presenti in Italia nel 2000 per via del giubileo aumentarono dell'8%, quindi ci fu veramente un grande impatto. Questa volta invece siamo al fatto che tra il terrorismo, quello che si è letto di Roma, soprattutto il terrorismo comunque, più che le polemiche ovviamente del dopomarino e dell'inefficienza di Roma, hanno portato migliaia e migliaia di persone a disdire le prenotazioni. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità e ci sentiamo tra poco. È ed eccoci qui, tornati in diretta a 8.36, primi 54 secondi, questo 8 dicembre, un attenti a noi due, privo del mio amato fratellino Alessandro Milan, che però torna domani, non vi preoccupate. Allora, 800 24 00 24, potete ancora telefonare, la domanda era: meglio il Giubileo che comincia oggi? L'avete sentito subito con un ascoltatore autista dell'ATA che dice: beh, veramente qui è così povero che non c'è nessuno rispetto al grande Giubileo del 2000, comunque dovrebbe costare fino a questo momento un quindicesimo alle finanze pubbliche di quello del 2000. È vero che quello del 2000 ebbe un grande impatto anche turistico, cioè di afflussi di risorse. Questo vedremo, perché tra il terrorismo, un po' di polemiche sulla Chiesa, ma soprattutto la paura del terrorismo, c'è tutt'altra area. Ma a proposito di paura del terrorismo, Repubblica oggi è un'altra di quelle conferme delle inquietudini che secondo me è legittimo avere in Italia. Questa vicenda a Bari, trovate pagina 19 su Repubblica, di un iracheno, Majid Muhammad. Questo iracheno era stato condannato per terrorismo, era stato condannato a 10 anni per terrorismo internazionale, scontata la pena, esce di prigione a gennaio, però non è possibile a quel punto espellerlo dall'Italia, perché sulle carte viene da un paese di rifugiati politici, e così un giudice annulla il decreto di espulsione. Annulla il decreto di espulsione. Allora la domanda diventa: ma si applica lo status di rifugiato politico a uno che ha appena scontato una condanna per terrorismo internazionale per 10 anni? Non lo so, a me pare solo in Italia, però naturalmente non voglio sindacare sulla decisione di questo giudice. A questo punto non si può espellere, e tornato Libera si mette ad arruolare foreign fighters, cioè non si è né pentito né redento, è tornato a fare quello di prima, applicato però all'ISIS. Ed eccoci qua che a questo punto bisogna di nuovo sottoporlo a indagini e così via, si scopre tutto, si riscopre tutto, ed eccoci qua che il caso ridiventa esattamente come prima della sua condanna. Leggetevi le intercettazioni. La mia domanda è: ma è possibile mai che siamo un paese in cui un giudice in questo caso non espelle? Ecco, non so cosa dirvi, a me sembra molto singolare. Io non la penso come negli Stati Uniti, altra notizia che trovate sui giornali: Trump, questo il miliardario protagonista dell'ascesa nel dibattito delle primarie negli Stati Uniti per le presidenziali dell'anno prossimo, Trump ha lanciato un'altra delle sue proposte pallone, per così dire, in tribuna: vietiamo l'ingresso ai musulmani, che, insomma, detta così è una roba che a confronto sembra quasi Salvini moderato. Vietiamo l'ingresso ai musulmani, non la penso, non potrei mai pensarla così, però l'eccesso opposto è di un paese in cui appunto un condannato che sconta una sentenza di 10 anni per terrorismo non viene espulso perché un giudice dice no, e a quel punto bisogna mettere l'intero apparato della sicurezza italiana di nuovo a intercettarlo e a beccarlo, che fa per i foreign fighters di nuovo una rete per mandarli in Iraq. E vedrete nelle intercettazioni, se prendete Repubblica, denaro, soldi, esplosivi, cioè insomma, mi interrogo su un'Italia che sembra un Emmental coi buchi. Altro sviluppo delle vicende in corso, quella del rimborso o meno a chi ci ha rimesso i soldi nelle 4 banche dove il governo è tenuto per decreto 2 domeniche fa le cosiddette banche risolte. Sui giornali di oggi trovate sviluppi su questa trattativa che sarebbe in corso tra un triangolo di trattativa tra Bruxelles, l'Unione Europea, il governo italiano e il sistema bancario italiano. Perché? Perché, come avete capito, nelle 4 regioni del centro Italia, forte voto PD, in cui stanno le banche su cui il governo è intervenuto, cioè Banca Marche, Banca Etruria, Arezzo, Carichieti, Cariferrara, è insorto il popolo degli obbligazionisti subordinati, che ha scoperto, dopo anni in cui si diceva da loro, da parte di Banca Italia, di tutti i giornali italiani, dei governi, dei politici: ma non rischiate niente, cari ragazzi, ma figuriamoci, non vi preoccupate, il sistema bancario è il più sano del mondo, noi non prendiamo i soldi pubblici per i salvataggi alle banche come fanno i tedeschi, gli spagnoli e così via. Hanno scoperto poi in pochi giorni che non era vero niente, rischiavano, e come, le loro banche erano commissariate, non si potevano fare gli interventi che Banca d'Italia e il governo raccontavano loro di fare all'italiana, senza che nessuno ci rimettesse niente, con cassa depositi e prestiti che metteva i soldi, oppure col fondo interbancario, niente. Hanno scoperto una domenica che invece quatto il governo ha dovuto intervenire con uno schema simile europeo, e quindi gli azionisti ci hanno perso i soldi, gli obbligazionisti subordinati ci hanno perso i soldi, e c'è l'insurrezione in corso per dire: ridateci i soldi, almeno gli obbligazionisti subordinati. La trattativa in corso sarebbe relativa al fatto che dei 350 milioni più o meno di perdita degli obbligazionisti subordinati, si vorrebbe ristorarne, non so con quale criterio, almeno un 100-150 milioni, un terzo a carico dello Stato e due terzi a carico delle altre banche concorrenti, che però puntano i piedi e dicono, ma insomma, ma per quale ragione noi dovremmo continuare a finanziare e a ristorare gli obbligazionisti subordinati delle altre banche più scassate di noi? Allora, su questo scenario di fondo, che è uno scenario complicato perché il governo è arrivato evidentemente senza capire bene cosa stava facendo e adesso si troverà, se interviene così, non a soddisfare le proteste di chi ci ha rimesso i soldi e contemporaneamente anche ad scatenare altre proteste, quelle delle altre banche che dicono ma perché ci dobbiamo dare noi i soldi? Vediamo un po' come la pensate, perché ho visto che c'è una telefonata a Serafino da Ravenna che è esattamente su questo tema. Serafino, ci dica. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io su questo tema la penso diversamente e allora volevo sentire il suo parere su questo ragionamento. L'obbligazionista ci ha rimesso i soldi, sì. Ma a me sembra una cosa che ha una logica. Uno presta soldi, presta soldi alla banca, la banca va male, nel momento in cui l'obbligazionista deve ricevere indietro i soldi che ha prestato, si dice i soldi non ci sono. E la cosa ha una logica. Mi sembra diversa la situazione degli azionisti. Gli azionisti non chiedono indietro niente. Gli azionisti hanno preso un'azione che valeva un euro, invece di valere un euro oggi vale, che so, un centesimo, e va bene, ma non capisco perché non deve valere neanche un centesimo. Qual è? E l'azionista deve essere trattato come l'obbligazionista. L'azionista non chiede indietro niente, l'azione varrà meno, ma deve rimanerla in mano. Mi dica il suo parere. Allora, vedremo quale sarà l'iter delle nuove banche una volta vendute. Però il criterio della diversa, per così dire, rudezza nell'intervento tra azionisti e obbligazionisti è giustificato dal fatto che gli azionisti hanno, rispetto agli obbligazionisti, un peso maggiore nel senso che la loro responsabilità è maggiore, quella di avere, sia pure ciascuno per quota a parte, retto per anni dei manager incapaci, incompetenti e truffaldini che hanno portato le banche al dissesto. Quindi per questo ha più senso colpire integralmente gli azionisti prima degli obbligazionisti e così via, perché hanno la responsabilità, ripeto, per quota a parte di avere dato il consenso a un management fallimentare. Questo è il motivo per il quale a un certo punto, quando le banche vanno a risoluzione, gli azionisti ci rimettono tutto. Con gli obbligazionisti subordinati la questione diventa diversa. La questione è: erano veramente consapevoli del rischio che assumevano, virgola, visto che questo è il paese tra tutti i paesi avanzati con la maggior percentuale di obbligazioni bancarie in portafoglio delle famiglie, non di investitori istituzionali, e in particolare di queste subordinate che rischiano di più, come si vede nei fallimenti bancari, che mentre vi hanno detto che non accadevano in Italia accadono, e come, visto che le banche sono gestite male? Allora, questo diventa il punto sulla cui base valutare se fare azioni volte a ristorare eventuali investitori che sono stati raggirati. La classica famiglia vecchietta che con la MiFID firma un foglio che dice ma sono titoli a bassissimo rischio, non informati dal fatto che invece il rischio, come si vede, c'è. Questo diventerà il punto sulla cui base vedere se si può provvedere a un ristoro parziale oppure no. A me sembra molto improbabile, a dirvi la verità. Vi stanno raccontando un'ennesima frottola. Dopo che vi hanno detto che non rischiavate nulla, adesso vi diranno che vi ristorano un po'. Però io ho qualche dubbio su tutto questo, soprattutto che l'Unione Europea non li svegli nuovamente. Può essere che io mi sbagli da questo punto di vista. Sentite che cosa dovremmo avere: un audio con il sottosegretario Zanetti, che ci dice, lui propone un meccanismo ancora diverso, che ha parlato proprio su questo. Non esiste che si va con i soldi pubblici a rimborsare situazioni di rischio che ciascuno si è assunto. Ai correntisti che stanno trasferendo i propri denari dai conti delle quattro banche in altri istituti di credito, lei che cosa si sente di dire? Che proprio adesso non vale più la pena farle, perché le quattro banche sono estremamente solide, essendo state pulite di tutte le parti di sofferenza. Allora, come sentite, ci sono opinioni diverse anche nel governo, per così dire. Oggi trovate un po' su tutti i giornali articoli che vi danno conto di questa trattativa, che è diventato un po' di un braccio di ferro. Sulla Stampa, per esempio, interviene anche il presidente dell'ABI, Patuelli, che dice, insomma, mettiamo un limite, il governo non ci può continuare a chiedere soldi per ristorare danni provocatisi in altre altre banche che sono andate male. Sul Corriere della Sera trovate Federico Fubini che scrive parlando di un vero e proprio esproprio di Stato si attuerebbe se il governo penserebbe di chiedere soldi alle altre banche, al sistema bancario, per procedere a un ristoro agli obbligazionisti subordinati di queste quattro banche. Ma resta il fatto che in Parlamento invece il PD, che ha un forte problema nel centro Italia di proteste, su questo vuole andare avanti. Quindi vedremo nei prossimi giorni che cosa avviene da questo punto di vista, e naturalmente vi terremo informati. Sentiamo però, tornando a Giubileo, la domanda che avevo lanciato all'inizio della trasmissione, ci chiama Mirella da Brescia. Mirella, come la pensa? Buongiorno. Senta, no, io volevo osservare, anche se diciamo adesso è lontano dal discorso, volevo osservare che la differenza tra questo Giubileo e quello del 2000, sì. Perché nel 2000 era solo a Roma ed era poi il passaggio del millennio. Certo. Questo Giubileo si pratica in tutte le chiese, dappertutto. Sia sì, sì, è un Giubileo universale, il Papa ci ha tenuto molto. È diffuso in tutte, credo, le parrocchie, comunque i vescovadi. Quindi la venuta a Roma perde di importanza. Ah, ecco, quindi lei dice, alla luce anche dell'impatto del fenomeno, essendo per la natura del Giubileo questo tipo di Giubileo completamente diverso, come ovvio, non solo per le indulgenze, ma proprio per la partecipazione è possibile. Ha valore uguale, esattamente. No? Se tu vai io sono a Brescia, al vescovado di Brescia ci sarà questa funzione che ha lo stesso valore per i cattolici che se fossero andati a Roma. Va bene, c'è però anche... No, certamente, perché poi naturalmente c'è chi vuole partecipare magari a qualche evento in cui è presente il pontefice, ma ha un grande carisma, sì, questo certo, Papa certo. Francesco, sì, però dal punto di vista della piena adesione e dei benefici anche della partecipazione alla cerimonia del Giubileo, la nostra ascoltatrice Mirella, grazie, ci fa notare che anche questo avrà un minore impatto di presenza a Roma, certo. Motivo per il quale, Mirella, io continuo a pensare che se spendiamo molto meno del 2000 è meglio, visti i guai che abbiamo a Roma tutti quanti, e Roma lo sanno. Sergio D'Asti, prego, che torna, temo, invece sul tema del risparmio, sbaglio? Ma sì, io sono un vecchio Tango Boys e di quelli che ci ha rimesso con l'Argentina. Giustamente, sapevo che rischiavo perché mi davano degli interessi più alti, un tasso di interesse decisamente più alto rispetto a quello che era la media dei tassi di allora. Ed è giusto che io in qualche modo paghi se la gestita è andata così, ed è giusto che lo Stato non sia intervenuto, però anche adesso lo Stato non dovrebbe intervenire, perché è ora di finirla che lo Stato interviene dappertutto. Tra l'altro io sono un ex esodato, sì, che ho contribuito in maniera molto consistente per 2 anni non avendo la pensione, tra l'altro sono un ex dirigente per cui molto alta. Mm-hmm. E adesso mi sento ancora dire che la pensione me la taglieranno. La taglieranno. Allora, dici, ma quante volte la devo prendere in fondo alla schiena? Mi esatto, pare di capire. A me sta bene pagare tutto da cittadino, però mi devono dare i servizi in primo luogo e poi paghiamo tutti nello stesso modo. Se no, qua c'è sempre un cittadino di serie A, B, C, D. Allora, Sergio, però, pone un'altra questione molto rilevante, perché quando in Italia noi ci abbiamo rimesso un punto di PIL dell'epoca, quando l'Argentina fece default. Oltre 15 anni fa, e ce lo rimettevo scoprendo di essere, dalla sera alla mattina, l'unico grande paese avanzato in cui c'era una percentuale così elevata di obbligazioni ad alto rendimento, quindi ad alto rischio, come i titoli sovrani argentini, nei portafogli delle famiglie, cioè dei risparmiatori retail ordinari e non degli investitori istituzionali, come invece in tutti gli altri paesi avanzati i sistemi bancari e gli intermediari finanziari avevano soprattutto collocato gli investitori istituzionali, perché i regolatori si erano preoccupati di non rifilare titoli ad alto rischio di insolvenza nelle mani dei risparmiatori ordinari. Quello che accadde allora, e scoprimo che era così, e naturalmente neanche allora il regolatore finì alla sbarra, come secondo me deve finire alla sbarra, perché è connivente con gli intermediari finanziari che piazzano con disinvoltura questi titoli su chi firma un foglio, e voi direte informato, sono io il primo a dirlo, però di fatto negli altri paesi, come vedete, non avviene, ed è la stessa ragione per cui gli italiani avevano la più alta percentuale di tutti i paesi OCSE di obbligazioni bancarie in portafoglio, perché anche in questo caso il regolatore non è andato a dire troppo alta la percentuale percentuale sui vostri clienti ordinari, glieli rifilate allo sportello. Allora il regolatore su questo, ripeto, è stato connivente col sistema bancario. L'ultimo conto, il Sole 24 Ore, risale a un mese fa, del totale delle obbligazioni subordinate al sistema bancario italiano, parla di 280 più o meno titoli in circolo per un valore di oltre 70 miliardi, di cui metà non quotati. Di questi 70 miliardi, 13 miliardi sono l'ammontare dei non quotati. Come vedete, stiamo parlando di una sberla di roba nelle vostre tasche. E allora il nostro ascoltatore dice: ma ci abbiamo rimesso allora senza che lo Stato dicesse che meritavamo il ristoro, perché questa volta invece bisogna darlo ai 4 del centro Italia perché stanno nelle regioni rosse? E attenzione, perché come sapete a pensare male si fa peccato, per così dire, ma non si sbaglia mai. Allora sentiamo ancora Massimo da Fermo che ci telefona. Massimo, prego. Buongiorno. Sì. Senta, allora io dico questo, vorrei fare alcune considerazioni tra la differenza tra l'obbligazione intanto e le azioni. Perché? Perché e mi rifaccio anche al signore che ha parlato in presenza. Sergio Di Asti, il problema dell'Argentina, poi se uno fa i calcoli dall'inizio alla fine eccetera, poi è rimesso, ma neanche molto, perché tra il fatto che l'ha rivenduta a 50, i warranty, no, ma è vero, poi c'è stato un meccanismo di recupero, poi sì. Esatto, e quindi voglio dire, per quanto riguarda le azioni, il discorso è questo che mi pongo il problema, cioè qui non si è capito né i bilanci, né che cosa sarà questa bad bank, non si è capito niente, si è detto le azioni non valgono più niente, quando poi, e questo è un meccanismo strano per il mondo delle azioni, per 2 anni sono state bloccate e quindi non sono state trattabili. Perché era intervenuta la Banca d'Italia commissariando. Esatto, questa Banca d'Italia l'ha tenuta 2 anni e poi dopo a un certo momento ha detto non valgono più niente, quando l'investitore poteva benissimo a 0,20, a 0,30. Bravo, allora io anche su questo sono molto critico, io penso che tutte queste procedure di potere assoluto barocco siano molto sbagliate a dirvi la verità, vanno avanti per anni, non si capisce perché, fino a quel momento poi non si era visto nulla nei bilanci prima, io ho molti dubbi, io ho fatto assemblea, ho scritto sui giornali in Italia su queste banche andate male anni prima e mi dicevano che sbagliavo. Ma anche no, fuori da queste 4 commissariate, anche le altre 10, o la Popolare di Vicenza, verso cui mi dedicai molto, molti anni fa. Quindi io credo che ci sia una responsabilità molto pesante da questo punto di vista, molto pesante. E voglio segnalarvi, prima di avviarci alla chiusura di oggi, una specie di Oscar di giornata, anche se non abbiamo il tempo per far partire la sigla, e lo dedichiamo. E lo dedichiamo all'onorevole del PD che passa a Forza Italia a Messina, l'onorevole che si chiama di nome Fracantonio e che è il proprietario della linea di ferribot Caronte di Messina. Si è fatto 19 mesi di carcere in custodia cautelare e da boss del PD di Messina che era, adesso ha scoperto Forza Italia. Fracantonio genovese, viva viva la politica italiana! Delle sliding doors, per così dire. Come vedete, è la risposta alla capogruppo del PD, all'Assemblea regionale siciliana di cui parlavamo ieri, che ha solo cambiato 6 partiti.